Europa 24. La voce del lander della missione ExoMars, il lander si chiama Schiaparelli, è stato catturato in tempo reale ieri in India. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, cominciamo questa edizione parlando di qualcosa che accade davvero molto lontano. Siamo ormai a pochi chilometri, pensate, dal pianeta Marte, dove domani appunto l'Europa sbarcherà, o comunque potrebbe sbarcare, con questa missione che appunto è ExoMars. ExoMars, naturalmente, con la X, non con la X, ed è ovviamente una grande missione esplorativa. Coinvolge molto il sistema dell'industria e della scienza europea, quindi il grande coordinamento dell'Agenzia Spaziale Europeo, e coinvolge l'industria europea ed italiana. Un grande evento che naturalmente seguiremo anche nel corso della giornata di domani. E ora torniamo sulla Terra, letteralmente, e parliamo di leggi di bilancio, di rapporti dunque con l'Unione Europea sul fronte dei conti. Nel momento in cui spendiamo i nostri soldi per fronteggiare la grande tragedia dei migranti, rendiamo uno sforzo e un servizio fondamentale all'Europa. Così il ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan, questa mattina. Sentiamo. I numeri andranno valutati, a nostro avviso siamo in regola. Difende la manovra, non è uno spot elettorale e fa bene alla crescita, e soprattutto si dice ottimista e convinto del rispetto delle regole europee. Il ministro dell'economia Padoan parla a Uno Mattina a poche ore dall'arrivo della bozza di bilancio a Bruxelles, definendo molto positivo il rapporto con la Commissione. È un rapporto continuo con cui ci consultiamo a vicenda. Nella bozza si ufficializza la scelta di alzare il deficit al 2,3% rispetto al 2% indicato nella nota di aggiornamento. L'aggiornamento del DEF, si conferma la stima del PIL all'1% nel 2017, così come la richiesta di spese straordinarie sia per il sisma sia per la gestione migranti. Numeri diversi da quelli concordati secondo Bruxelles, tuttavia i tecnici vogliono capire cosa ci sia dietro alle tabelle anche dal punto di vista qualitativo, e dunque la Commissione vaglierà carte e cifre in un dialogo che il commissario agli affari economici Moscovici ha definito esigente. Il 1° novembre è il termine ultimo in cui la manovra potrà essere definita accettabile o rispettabile dita al mittente. Entro il 30, giudizio definitivo. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. La bozza è dunque arrivata, confermata dall'Unione Europea con una nota. È anche curioso, in questo 2016 ancora c'è questa rituale dell'invio che evidentemente avviene per lo più in forma elettronica. Ma tant'è, cambiamo tema. Invece quello che sembra davvero radicato in un passato che vorremmo lasciarci alle spalle è quello del tema della tratta delle persone, degli esseri umani, delle donne, ma non solo. Circa 21 milioni di persone sono infatti vittime di tratta. Lo ricordano l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni e le Nazioni Unite nella giornata in cui l'Europa celebra appunto la giornata contro la tratta degli esseri umani. Circa 21 milioni di persone sono vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, lavoro forzato, espianto di organi, accattonaggio, servitù domestica, matrimonio forzato, adozione illegale e altre forme di sfruttamento. Lo ricordano l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni e le Nazioni Unite nella giornata in cui l'Europa celebra la giornata contro la tratta degli esseri umani. Secondo i dati OIM, il 71% dei migranti che partono dall'Africa alla volta dell'Europa lungo la rotta del Mediterraneo centrale è stato vittima di sfruttamento e tratta di esseri umani. 7 ragazze straniere su 10, fra quelle che sbarcano in Italia, sono destinate allo sfruttamento sessuale, come spiega la responsabile dell'attività antitratta dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, Simona Moscatelli. Il fenomeno che più ci allarma ultimamente è quello che sta accadendo sulle coste italiane, dove svariate migliaia di ragazze, soprattutto di origine nigeriana, vengono portate dai trafficanti per essere messe sulla strada, sia in Italia che in Europa. È un aumento vertiginoso, parliamo più del 1000% rispetto al 2013. Ci spaventa soprattutto il fatto che queste ragazze siano sempre più piccole, dai 13 anni. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per ora è tutto. Da Roberta Frisani in regia, da Gigi Donelli al microfono, un saluto. Noi ci risentiamo domani. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.